Non si è sforzato troppo l'ex ministro Tremonti quando, in una delle sue frequenti esternazioni, l'ho trovata citata sul Corriere dell'altro ieri, ha dichiarato, riprendendo, credo, un vecchio gioco di Giorgio Gaber, che mentre alla sinistra piacciono soprattutto gli involtini primavera e il couscous, la destra predilige di gran lunga gli spaghetti e la pizza. Tanto per cominciare, ha detto una cosa non vera, perché conosco fior di democratici di provata fede che a togliergli la pizza diventano delle belve. E comunque, se piccandosi come si picca di essere un uomo spiritoso, sai Dio perché, voleva riprendere quel vecchio tormentone, la mossa di identificare la destra con l'ossequio alla tradizione nazionale e la sinistra con il gusto cosmopolita dell'esotico è francamente banale. La metafora, se di metafora si tratta, è troppo ovvia per essere interessante. Bene ha fatto dunque il nuovo leader del riformismo italiano, l'onorevole Bertinotti, a non impancarsi in ulteriori attribuzioni di significato, limitandosi a ribattere che a voi piace la paniscia. Si tratta, la paniscia, come certo saprete, di una sorta di risotto di minestrone molto denso, con verza, fagioli e l'occasionale aggiunta di altre verdure. Ed essendo una vivanda tipica di quella terra tarsesia al Ticino in cui Piemonte e Lombardia si confondono, e non può che far risuonare una corda sentimentale nell'animo di un milanese vissuto a Torino come appunto il segretario di Rifondazione, che d'altronde ha dichiarato che nella riproduzione del territorio vede un antidoto ai pericoli della globalizzazione. Ma soprattutto, credete a chi come me vanta anche lui qualche ascendenza da quelle parti, è un piatto di rara squisitezza, il cui consumo non può che fare del bene a chiunque. E certo, nella versione originale, come la preparava mia nonna, si prevedeva l'uso del lardo in quantità tali da sgomentare chi avesse dei problemi di colesterolo, ma la globalizzazione, con tutti i pericoli che comporta, ha se non altro il merito di aver fatto conoscere anche in Lomellina l'olio extravergine, permettendo ai cuochi locali di perseguire quel sapiente equilibrio tra passato e presente in cui, a prescindere da qualsiasi problema di appartenenza politica, si sostanza il fascino dell'alta cucina. E poi, prima di parlare bisogna informarsi. Se Tremonti avesse esperito le necessarie indagini, avrebbe scoperto che gli involtini primavera sono sì una specialità cinese, ma li hanno elaborati così come li conosciamo i ristoratori cantonesi operanti in Europa, per cui ben poco d'esotico in definitiva si possono vantare. Il couscous, anche se un politico di origini valtellinesi autorizzato a non saperlo, si è acclimatato da secoli in Sicilia, può essere considerato senza problemi una specialità nazionale, lo fanno a Trapani. Gli spaghetti, come ognuno sa, invece, ce li ha portati Marco Polo dalle sue pellegrinazioni nel Catai. E quanto alla pizza, almeno nella versione con mozzarella, è stata inventata a fine 800 da un artigiano desideroso di rendere omaggio alla regina Margherita in visita e va considerata dunque un'innovazione recente, estranea alla vera tradizione partenopea. In campo gastronomico, come in tutti gli altri campi peraltro, tradizione e innovazione sono meno distinte tra loro di quanto non si pensi di solito, si intersecano, si confondono in mille nodi e ancora una volta la possibilità di distinguere l'una dall'altra dipende esclusivamente dai criteri che adotta l'osservatore. Peccato che in questa elegante schermaglia metodologica Bertinotti abbia voluto stravincere, citando Brodel, per cui sembra spaghetti, couscous e risotti sono cibi di contaminazione mediterranea, il che dovrebbe renderli, pare, ancora più appetibili di quanto non siano di per sé. Sarà vero, non lo nego mica. Anche se bisogna lavorarci parecchio per identificare gli elementi mediterranei nella paniscia, in cui i fagioli tutto sommato vengono dall'America, il riso dall'estremo oriente e la verza dall'Europa centrale. Ma sposta il discorso su un piano inutilmente erudito e introduce dei valori che non c'erano prima e complica una criteriologia che stava in piedi benissimo anche senza. Tremonti gli ha risposto un po' fiaccamente che non vede quale contaminazione possa esserci tra la Panisce e gli involtini primavera. Vista la rapidità e l'imprevedibilità con cui avvengono gli incroci di questo tipo, se fossi in lui, prima di compromettermi, ci avrei pensato due volte.